Parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Silenzia. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD The Secret Inside, come il primo che è andato in onda, titolo Flyswatter. La vostra esperienza durante la registrazione e quali idee musicali che hanno poi realizzato questo CD? Per questo primo album abbiamo deciso di autoprodurci totalmente, quindi abbiamo realizzato le registrazioni nel nostro studio che abbiamo in sala prove. Ci è voluto parecchio tempo perché comunque abbiamo cercato di fare le cose al meglio e poi certo, abbiamo mixato in uno studio esterno per concludere il tutto. La prossima canzone per i nostri ascoltatori: Back to You. I don't know why you yet. I just can't say your name. My own, this is just what I need. In studio ancora con i Silenzia, recensioni, quali le più interessanti e cosa dicono del vostro disco? Beh, al momento purtroppo recensioni non ne abbiamo perché siamo alla ricerca di un promoter o di un'etichetta che ci dia modo di farci conoscere in modo un po' più ampio. E ti posso dire che la settimana scorsa siamo stati negli studi di Rock TV a registrare un brano per la trasmissione Sala Prove e volevamo ringraziare Mario Riso per averci dato questa possibilità ed è stata una bellissima esperienza. Prossimo track si chiama The Secret in the Woods. Ritorniamo a breve per la quarta parte di Rock Legends con il Silenzia. Voi rimanete ancora su Radio RCS.